24 mattino di Alessandro Milan. Le 7:19 minuti, eccoci cari ascoltatori, in diretta fino alle 9 anche oggi col nostro Paolo Corleoni in regia, che esulta come per un gol segnato. E di che parliamo nel nostro sondaggio? Beh, parliamo della riforma fiscale, in particolare di ciò che Tremonti ha detto: abbassare le tasse per ridurre l'evasione fiscale, una delle strade tracciate e indicate dal ministro dell'economia. Che ne pensate? Ne parleremo qui in studio. Ritorna con grande apprezzamento il nostro Oscar Giannino e anche il professor Brancaccio. Abbiamo ricostituito la squadra di qualche giorno fa, quando abbiamo parlato di riforma fiscale e di fisco. Allora, di questo parliamo. Votate il sondaggio su radio24.it alle 8:30 ed ora iniziamo dai giornali in edicola. In primo piano. Giovedì 16 giugno, uno sguardo alle aperture dei quotidiani. Il Sole 24 Ore apre sulla Grecia. La crisi greca minaccia l'Europa. Il Fondo Monetario valuta un piano per l'erogazione di prestiti straordinari. Poi la vicenda dell'inchiesta che ha portato in carcere Bisignani è titolo di apertura per vari quotidiani. Il Corriere: ricatti, arrestato Bisignani, la rete segreta del consulente per condizionare la politica. Per Repubblica: spiavo i PM e informavo Letta, il sottosegretario. La Stampa: dossier P4, trema la politica. Il Messaggero: i dossier segreti della P4. Per l'Unità: eminenze nere. E c'è un disegno appunto di persone vestite di nero. Per Il Giornale: il tritacarne giudiziario, pattume anche su Letta. Libero invece sulle tasse: 500 idee taglia tasse. C'è chi apre invece sulla polemica col ministro Brunetta. Brunetta, ministro degli insulti, questo è il titolo del Fatto Quotidiano in apertura, mentre il Manifesto: brutta gente, il ministro precario, c'è una foto di Brunetta. Vi ricordo che Renato Brunetta, il ministro, sarà nostro ospite alle 8:20 nell'intervista. Da cosa voglio partire come segnalazioni? Beh, la prima la troviamo su vari giornali, su Repubblica, su Libero, Repubblica pagina 19, Libero pagina 22, una vicenda incredibile che riguarda il processo di Rignano Flaminio, ricordate, dove ci sono 4-5 imputati per abusi sessuali sui minori. Ebbene, ma la vicenda rischia di essere tutto bloccato, tutto azzerato per una questione meramente burocratica. Rignano, giudice spostato per un concorso, da rifare il processo per gli abusi all'asilo. Così titola Repubblica, oppure su Libero: il giudice prende l'aspettativa, il processo di Rignano è da rifare. Beh, Federica Angeli su Repubblica: tutto da rifare per ragioni procedurali. Il processo alla scuola materna Olga Rovere di Rignano Flaminio, tutto in corso al Tribunale di Tivoli, tutto perché uno dei componenti del collegio giudicante, la dottoressa Marzia Minutillo Turtur, è stata collocata fuori ruolo dal CSM per consentirle di partecipare come membro esaminatore al concorso in magistratura, rientrerà presumibilmente tra 2 anni, salta dunque il collegio composto con il presidente e con il giudice Barbara Callari. La vicenda è burocratica, appunto. Gli avvocati dell'accusa si appellano al buon senso per tutto quello che è stato fatto finora. Il dibattimento, secondo loro, potrebbe proseguire non gettando alle ortiche le 10 udienze nelle quali sono stati ascoltati 30 genitori, una decina di investigatori. La difesa promette nessuna volontà di fare ostruzionismo, ma certo, cambia il collegio e dunque il processo rischia di essere tutto da rifare. E anche questa la giustizia italiana. La seconda segnalazione la trovo anche questa un po' spalmata sui vari giornali. Il Corriere della Sera la titola così: via libera alla class action sulle aule sovraffollate. Oppure per La Stampa: via libera alla class action contro le scuole pollaio. Così sono state definite. È una class action che è stata portata avanti dal Codacons e c'è stato il primo sì dal Consiglio di Stato, un via libera, che ha bocciato un ricorso del Ministero della Pubblica Amministrazione, della Pubblica Istruzione, scusate. Per cui ci sarà la possibilità di fare una class action contro le scuole che prevedono aule sovraffollate con più di 25 allievi stipati tra i banchi, con rischi, secondo il Codacons, per la sicurezza di professori e ragazzi. Già il TAR del Lazio aveva dato ragione all'associazione presieduta da Carlo Renzi. Il ministro Gelmini si era opposta, adesso il giudice amministrativo, cioè il Consiglio di Stato, conferma l'orientamento e impone al Ministero di provvedere a un atto generale di natura programmatica per riqualificare l'edilizia scolastica in quelle istituzioni non in grado di reggere l'impatto delle nuove regole. Insomma, sì, via libera alle cosiddette class action contro le classi pollaio, come sono state definite. Il giornale la pone così: sarà un giudice a decidere se l'aula è affollata. C'è forse spazio? Sì, do un'altra segnalazione, è questa, la trovo su Libero, ma è curiosa, pagina 23, l'ex senatore Ottaviani. È un senatore della Lega, ex, nel settembre 93 fece ciò che nessun leghista aveva osato fare, tenere un comizio a Corleone, dove un frate gli disse: guardi che lei ha rischiato che le sparassero in piazza pubblica, un leghista che è andato a Corleone a parlare di federalismo. Poi ha fatto altre iniziative, per esempio dice: io sono quello che ha inventato il passaporto federale, oppure sono io colui che ho definito Alba Parietti coscia lunga per la prima volta in TV a Tele Monte Carlo. Eppure sono ricordato soprattutto sui motori di ricerca e su Google per un avviso di garanzia dal quale poi venni assolto per non aver commesso il fatto, ma questo ex senatore dice: non ne posso più, chiedo 10 milioni di euro per danni morali e materiali al motore di ricerca Google e altri motori di ricerca definiti mostri informatici che usano sistemi inattaccabili e per un certo verso barbari contro i quali è impossibile combattere. L'ex senatore Ottaviani fa causa a Google, dà solo le notizie sul mio processo e non dice invece, per esempio, che fui l'inventore di Alba Parietti coscia lunga. In primo piano. Alle 7:34 minuti, allora, come detto, molti giornali danno ampio spazio, e così sarà nei prossimi giorni, su questa inchiesta che proviene da Napoli, l'inchiesta già ribattezzata P4, abbiamo visto i titoli. Beh, l'uomo chiave è Luigi Bisignani, che è stato arrestato. Ci sono tra l'altro tantissimi ritratti sui giornali di chi è Luigi Bisignani, un uomo che si muove e ha moltissime conoscenze, relazioni con il potere da oltre 30 anni. Secondo l'accusa di Napoli, il PM è Woodcock. L'accusa è questa: Bisignani aveva una rete di potere e attraverso le informazioni che raccoglieva da Alfonso Papa, ex magistrato e componente della commissione antimafia, attualmente deputato del PDL per il quale è stato richiesto l'arresto, attraverso le informazioni che questo onorevole raccoglieva grazie alle sue talpe in procura, poi informava alti esponenti della politica, secondo l'accusa il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta, sui movimenti della procura di Napoli. Insomma, questo è lo scenario. Papa era la mia talpa, aiutò Verdini sulla P3 e fece il salto di qualità, così titola per esempio Repubblica con Francesco Viviano a pagina 4. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta era referente principale del faccendiere Luigi Bisignani. A Letta Bisignani riferiva tutte le informazioni che Alfonso Papa, deputato del PDL, riusciva ad avere grazie alle talpe di cui disponeva nella procura di Napoli, che indagava su politici, imprenditori e faccendieri, compreso lo stesso Bisignani. Questa è l'accusa, insomma una rete molto articolata, troverete paginate ovunque. Gianni Letta, vengono fatti anche altri nomi di politici, per esempio viene tirato in ballo Italo Bocchino, secondo alcuni interrogatori Alfonso Papa avrebbe ottenuto le informazioni da Italo Bocchino di quello che succedeva alla procura di Napoli. Gianni Letta, beh, il giornale la mette così e la titola così: pattume anche su Letta. Il PM Woodcock arresta il lobbista Bisignani ma punta in alto. Intanto le carte girano, anche se non ci sono prove, contengono nomi illustri. Gianni Letta sul Corriere della Sera, pagina 3, nell'articolo di Lorenzo Salvi: accado dalle nuvole, non ho mai parlato delle mie inchieste, indagini su di me lo ignoro, non so cosa Papa possa aver acquisito su di me, cado dalle nuvole. Gianni Letta, che notoriamente non parla, parla pochissimo, è un uomo di pochissime parole, ma scrive il Corriere, decide di farlo dopo la richiesta d'arresto per Alfonso Papa, parlamentare del PDL. accusato appunto di aver acquisito informazioni sulle indagini a carico, tra gli altri, anche del sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Non ho mai parlato con lui di presunta inchiesta a mio carico, dice Letta. Non sapevo nemmeno che esistessero e non so neppure se davvero esistano. Insomma, questo è il clima. Chi è Bisignani? Come detto, ci sono tantissimi ritratti, per esempio Alberto Statera, pagina 3 di Repubblica, lo definisce come un uomo in grado di muoversi tra nomine, appalti, grassazione di pubblico denaro, dossieraggi, spionaggio, servizi segreti deviati, interferenze sugli organi costituzionali. Difficile catalogare tutti i luoghi nei quali il federatore disponeva e forse ancora dispone di poteri ben superiori a quelli dei titolari ufficiali. Per Sergio Rizzo, in pagina 2 e 3 del Corriere della Sera, il ritratto di Bisignani è questo: amici e denaro, il potere segreto del giallista. In passato anche una condanna per la tangente Enimont, c'è lui dietro alle scelte importanti. Secondo l'accusa, tra l'altro, secondo la sua storia, era quando lui era collaboratore di un potente ministro democristiano, Gaetano Stammati. Nel maggio 81 il suo nome sarà scoperto dai giudici Gerardo Colombo e Giuliano Turone negli elenchi della P2 di Licio Gelli, cioè quelli del ministro, ma nei libroni pare ci sia anche lui, il 28enne Luigi Bisignani, accanto a ministri, direttori di giornali, alti papaveri militari, a un signore che diventerà presidente del Consiglio, vale a dire Silvio Berlusconi. Insomma, questo è il clima. Secondo il Corriere, Bisignani ai PM avrebbe detto, questo scrive Giovanni Bianconi, le notizie che raccoglievo sui processi le davo a Palazzo Chigi. Ecco qui l'accusa a Palazzo Chigi, vuol dire che si tira in ballo Gianni Letta, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Tutto viene tradotto dalla stampa e questo è il clima e il fermento politico di questa nuova inchiesta. L'incubo del PDL è un nuovo 1992. Ugo Magri fa la lettura politica di questa nuova inchiesta dicendo: Berlusconi l'aveva detto dopo la vittoria del sì, dopo il referendum, ora i magistrati si scateneranno. Berlusconi, viene attribuita a lui questa frase, puntano a Letta, ci hanno già provato. L'intero gruppo dirigente del PDL ritiene che siamo alla resa dei conti, scrive Ugo Magri. I PM e la tesi collettiva puntano a una crisi non solo di governo, ma di regime, dell'intero sistema di potere berlusconiano che ha impregnato di sé l'ultimo ventennio. E addirittura viene citato Osvaldo Napoli, onorevole Osvaldo Napoli, che dice: quando la politica è debole, le procure colmano il vuoto. Insomma, è l'ennesima puntata per qualcuno dello scontro politica-magistratura di cui l'Italia fatica davvero a liberarsi. Per quel che riguarda invece la questione politica, sono due le notizie che vengono messe in primo piano sui giornali. Beh, intanto una parziale ricomposizione pare tra la Lega e Berlusconi. Berlusconi e Bossi si parlano, hanno fatto il viaggio in aereo insieme da Milano a Roma, ma resta la tensione, così titola il Corriere, anche perché c'è molta fibrillazione da parte della Lega che si prepara a Pontida. Si prepara a Pontida e lo strappo su Pontida sarà sulla questione della Libia. Questo ormai è accertato, ieri noi ne abbiamo parlato anticipando un po' questo tema. Ebbene, guardate il titolo della Padania, oggi è emblematico: basta con la guerra in Libia. Maroni, si sviluppi la democrazia invece di spendere soldi per le bombe. Solo noi abbiamo un impatto negativo per questa situazione, 20.000 profughi. Quindi sul tema della Libia la Lega a Pontida vorrà in qualche modo rompere o comunque mettere un out-out. Tra l'altro è interessante che sul Corriere della Sera Francesco Verderami, nel suo retroscena della politica, scrive così: a Pontida la Lega strapperà sulla Libia e il premier è d'accordo, ma non potrà dirlo. Se potesse, scrive Francesco Verderami, Berlusconi domenica salirebbe sul palco di Pontida, sulla Libia direbbe quello che ha in animo di dire Bossi. Perché oggi Berlusconi sosterrebbe quanto sosteneva marzo: nessuno sa come andrà a finire, lo sapevo che saremmo finiti in un pantano, ma Berlusconi non può. Ragioni di realpolitik, di relazioni internazionali, gli impongono di trattenersi. Questo che direbbe oggi è: tra le pressioni della Casa Bianca e quelle del Quirinale, come facevo a resistere? E dunque, secondo il Corriere, Berlusconi sarebbe totalmente in linea sulla questione libica con la Lega. E domenica quello che succederà per Verderami del Corriere è che Bossi scaricherà su Berlusconi il prezzo politico dell'intervento, contro cui si scaglierebbe anche il Premier, se solo potesse. Tra l'altro sulla Lega ci sono analisi invece di quello che sta succedendo all'interno del partito. Mattia Feltri oggi sulla Stampa, ve lo segnalo, chiusi a riccio con Bossi, i peones padani si blindano. C'è un viaggio un po' tra i vari deputati della Lega a dire che succederà. Si può anche pensare a una Lega dopo Bossi, secondo Libero, che punta molto su questo. Si parla già di successione morbida a Bossi, cioè pensare a un futuro della Lega oltre Bossi, magari affidato a un triunvirato, vale a dire quello dei due Roberto, Roberto Maroni e Roberto Calderoli, e ovviamente anche un ruolo per Bossi. Quindi da una monarchia, tra virgolette, con Bossi unico, a un triumvirato Bossi, Calderoli, Maroni come possibile futuro della leadership della Lega. C'è poi, prima di arrivare a due temi, quello della Libia e quello di un'intervista a Gianfranco Fini, intervistato oggi presidente della Camera sul Corriere, c'è poi questa frase di Berlusconi che ieri è andato ai funerali di Romano Comincioli, senatore, suo compagno di classe a scuola, e che viene riportata da tutti i giornali, sfogandosi con i vecchi compagni di classe ritrovati al funerale di Comincioli. Berlusconi ha detto: mi chiedono 2.500 miliardi di vecchie lire. Dove li trovo così tanti soldi? Si riferisce alla decisione attesa a giorni in appello della questione CIR De Benedetti, il contenzioso civile, 750 milioni di euro questo, e poi si riferisce anche a un 300 milioni di euro che Marco Galluzzo sul Corriere dice non si capisce bene di che cosa si riferisca, forse un vecchio contenzioso ancora aperto derivato dalla fusione tra l'Arnoldo Mondadori editore e la finanziaria controllante AMEF nei primi anni 90, una fusione che produsse una coda giudiziaria tra le aziende del Premier e l'Agenzia delle Entrate, per la quale Berlusconi forse dovrebbe ora 300 milioni di euro. Mi chiedono tutti questi soldi, dove li trovo? Così Berlusconi si sarebbe sfogato con i suoi compagni di classe. Oh, veniamo all'intervista a Gianfranco Fini, intervistato da il Corriere della Sera, da Aldo Cazzullo, a pagina 13. Il presidente della Camera dice: Berlusconi dovrebbe fare un gesto d'amore per l'Italia e il centrodestra, cioè fare un passo indietro, ma non lo farà e il governo collasserà come un mobile pieno di termiti. Un gesto d'amore che dovrebbe fare, ma non lo farà. Dovrebbe passare la mano, ma non facendolo sarà un male. Il 22 comunque non succederà nulla. E poi usa questa metafora, Fini: il governo mi ricorda un mobile pieno di termiti, all'apparenza solido, ma destinato a collassare d'improvviso. Minimizzare sostenendo che la sconfitta è dovuta al mancato taglio delle tasse significa nascondere la testa sotto la sabbia. Si sta per chiudere una fase, forse per certi aspetti si è già chiusa. E poi Fini rilancia su che cosa? Su un governo di centrodestra che realizzi l'agenda Draghi. Se si vota, i poli saranno tre. Tutte le opposizioni sarebbero in difficoltà a dire no a un governo che chiudesse il libro dei sogni cui gli italiani hanno mostrato di non credere più e affrontasse l'emergenza economica e morale che ormai è vicina, anzi forse è già qui. E dice: se si andrà alle elezioni, il terzo polo non è una convergenza tattica, l'interesse dei singoli partiti sarebbe semmai di divaricarsi, è una scelta strategica nell'interesse nazionale. Così Gianfranco Fini, che dice: l'esecutivo Berlusconi collasserà, no? Usa questa metafora, come un mobile pieno di termiti, ma a non rompere sarà la Lega, non sarà la Lega a rompere, ma ci sarà un collasso di colpo. In primo piano. Elezioni in Libia, tanto vincerà mio padre. Lorenzo Cremonesi del Corriere è riuscito a intervistare Saif al-Islam Gheddafi. Due pagine intere, pagina 18 e 19, rilancia su questo tema, sembra un po' la mossa della disperazione. Elezioni per chiudere la questione libica, e se vinceranno i ribelli di Bengasi, tanto di cappello, noi ci faremo da parte, ma sono certo della nostra vittoria. Poi si concentra in questa lunga intervista anche sul governo italiano e i rapporti con l'Italia. È molto duro Saif al-Islam. Sino a quando ci sarà Berlusconi al governo, l'Italia non potrà avere alcun ruolo. Da quello che possiamo capire qui a Tripoli, il premier vostro è in difficoltà. Pare inevitabile la sua prossima sconfitta. Bene, non possiamo che gioirne. Lui e il ministro degli esteri Frattini si sono comportati in modo abominevole. Sino a 3 mesi prima lo scoppio della ribellione venivano a inchidarsi, abbracciavano la mano a Gheddafi, salvo poi voltare la schiena e passare armi e bagagli tra le file dei nostri nemici alla prima difficoltà. Vergogna! Questa è l'analisi impietosa, certo, di non di uno stinco di santo, Saif al-Islam sul governo italiano. Vabbè, solo un accenno alla questione Brunetta precari. Accenno perché? Perché Brunetta sarà il nostro ospite, il ministro, alle 8:20 dell'intervista. Beh, ci sono tantissimi articoli, per la verità soprattutto critici, di giornali, certo anche come, non so, Il Fatto Quotidiano in prima pagina, Repubblica con Francesco Merlo, Massimo Gramellini in prima pagina della Stampa, a dire, ma insomma, ministro, ma anche Sergio Rizzo sul Corriere avrebbe dovuto chiedere scusa, ha insultato i precari. Il ministro si è difeso dicendo ce l'ho solo con le persone che irrompono nei comizi, nei dibattiti, irrompono nelle occasioni pubbliche per fare casino, diciamo così, la metto molto brutalmente. Viene intervistata anche un po' da tutti Maurizia Russo Spena, che tra l'altro è la figlia dell'ex senatore di Rifondazione Comunista Russo Spena, che è colei precaria che ha preso la parola dicendo sono della rete precari italiani, e a quel punto Brunetta ha detto, se n'è andato via infastidito, siete la peggiore Italia. Questa è la frase che ha fatto scatenare la rete e ha fatto scatenare le proteste dei precari. Ne parleremo alle 8:20. Il Sole 24 Ore, la crisi greca minaccia l'Europa, questo è il titolo d'apertura. Si concentra su quello che sta succedendo, purtroppo anche con scontri, abbiamo sentito anche in apertura del GR, anche con situazione sociale di tensione molto forte. E tra l'altro voglio segnalare sull'eurozona sotto stress, banche, mattoni e debito, quel filo rosso che lega i rischi dei paesi europei, è una bella analisi di Moria Longo. Il Sole 24 Ore ha avuto accesso ad alcuni dati molto riservati, per questo pubblicabili in parte, da parte della Bain & Company, della società di consulenza che ha lavorato per il salvataggio della Anglo-Irish Bank, di Northern Rock, di Dexia. E da questi dati si evince che, insomma, la situazione in Grecia e la mappa del rischio banca-stato in Europa non è una situazione solo per la Grecia o per l'Irlanda, ma il baco in Europa potrebbe colpire anche il Portogallo presto. C'è l'analisi di quello che succede in Grecia, anche di quello che succede in Italia, in Spagna, dove è un po' meglio del Portogallo, ma è perché il mercato immobiliare è cresciuto più che in Irlanda, ma insomma la situazione non è delle migliori. Beh, attenzione, perché questa pagina è molto molto preziosa, pagina 5 del Sole 24 Ore, per capire lo stato del rischio banche nei vari stati europei. C'è molto anche di riforma fiscale, il tema del nostro sondaggio con Oscar Giannino e il professor Emiliano Brancaccio. Li abbiamo riconvocati su quello che è la riforma fiscale, ciò che c'è allo studio. La segnalazione sulla quale vorrò proprio sfrucugliare Oscar Giannino è questa: lotta all'evasione. Sentite qui, meno partite IVA, ma soprattutto sul web i nomi di chi non paga. Si profila come ipotesi allo studio anche quella che è già stata ribattezzata la gogna fiscale, o dal Messaggero viene messa in modo un po' più sfumato e dolce la lista pubblica dei furbi, e cioè chi non paga le tasse ve lo faremo sapere mettendo nome e cognome sul web. Ma accidenti, beh, questa è molto forte, eh? Libero titola 500 idee per tagliare le tasse. Voglio solo concludere con che cosa? Una notizia che qualcuno potrebbe prendere come una notizia positiva: il caso Cesare Battisti. Per il caso Cesare Battisti, l'ex presidente brasiliano Lula, che doveva venire a Roma a un convegno sulla FAO, fa sapere il Messaggero, ma anche il Giornale, caso Battisti, Lula rinuncia a Roma. L'ex presidente brasiliano resta in patria perché teme le contestazioni. Il suo viaggio in Italia è stato annullato per il Giornale, la ritirata di Lula, teme i fischi e schiva l'Italia. 24 mattino. l'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan, sono le 8 e 21 minuti in quest'istante. Voglio salutare il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Renato Brunetta. Ministro, buongiorno. Buongiorno a voi. Senta, forse già avrà visto i giornali oggi, non so se avrà avuto modo. Parliamoci chiaro, insomma, il mondo del precariato è infuriato con lei. Che succede, ministro? Ma io ho visto i giornali, la cosa più divertente è stata l'intervista a quella, tra virgolette, leader di quel movimento di precari che è venuto a contestarmi o a pormi delle domande. Sì. Guadagna 1.800 euro al mese da 5 anni con contratti a termine presso un'agenzia del Ministero del Lavoro. Non mi sembra molto precaria. Lei quanti ne guadagna, mi scusi? Lei, sì. Io, è un po' di più, sono un po' più fortunata. E poi sono assunta a tempo indeterminato. Ecco, allora, il punto è questo. In Italia c'è un piccolo esercito di lavoratori a tempo determinato, con contratti atipici, emersi negli ultimi 10 anni dopo la riforma Biagi, già quella fatta dal ministro Treu, poi quella del ministro, e poi con Sacconi e Maroni. Questa emersione, tra l'altro, è ancora parziale perché esiste ancora molto sommerso, pensiamo solo agli immigrati e agli immigrati clandestini. Una parte di questo, chiamiamole contratti atipici, è anche nel settore pubblico, sì. Perché il settore pubblico ha bloccato in gran parte le assunzioni e in gran parte ha bloccato il sistema parallelo che gli enti pubblici, comuni, province, regioni, ASL eccetera usavano, e cioè di compensare il blocco del turnover con assunzioni a tempo determinato. La crisi, questi 3 anni, hanno prodotto un dimagrimento di questi comportamenti e quindi anche situazioni di incertezza e di precarietà. Però vede, la precarietà maggiore è di chi svolge con un contratto a termine da tanti anni e vede incancrenita la sua posizione, cioè non ha un futuro. Questo è il vero problema. Però, ministro, quella frase che le contestano è: siete l'Italia peggiore. Cioè qualcuno dice ha insultato i 4 milioni di lavoratori precari italiani. Veramente io ho dato un giudizio sulle 4 persone. Ah, quelle persone lì che erano lì. Questo è molto chiaro. Dopodiché, quelle 4 persone che sono venute non per ascoltare il convegno che era sull'innovazione, non per ascoltare il sottoscritto che parlava dell'Italia migliore, che l'Italia dell'innovazione, dell'Italia dei tanti giovani che si impegnano nell'innovazione, nei parchi di ricerca scientifici, eccetera, eccetera, che questo è stato il senso del mio discorso. A questi non interessava nulla di tutto ciò, avevano già pronti gli striscioni, come si vede dal video, eccetera, eccetera, e non ascoltavano, perché poi io alla fine, mentre uscivo, ho cercato di interloquire, come si vede sempre dal video, una persona, ma questi solamente insultavano. E quella è l'Italia peggiore, e lo ribadisco, è l'Italia di chi non consente al ministro dell'università o della scuola di parlare in una scuola o di una qualsiasi facoltà universitaria perché viene immediatamente subissato di fischi e così via. E di chi, e questo è successo con la Moratti prima, con la Gelmini oggi, e di chi insulta e fischia in ogni occasione. Questa è l'Italia però peggiore, oggi anche di chi non è interessato ai contenuti, ai problemi. Ministro, vede, in fine settimana si svolgerà a Genova, mi pare organizzato dal PD, un interessante, penso, seminario sui temi del lavoro, della precarietà, sì, eccetera, eccetera. E si dibatteranno due tesi. La tesi di Ichino, che io tra l'altro con cui condivido molte cose, sì, senatore del partito, quella degli insider, outsider, vale a dire che la ragione di tanta precarietà, chiamiamo così, in Italia è del fatto che c'è troppa rigidità nel mercato del lavoro a tempo indeterminato. Questo è il tema vero. Però guardi, ministro, per esempio Sergio Rizzo, che è un giornalista del Corriere della Sera, molto moderato, dice: tra i compiti e tra gli oneri di un ministro è anche di ascoltare se uno vuol fare una domanda scomoda, quindi dice dovrebbe chiedere scusa perché... Ma vede, c'è modo e modo. Allora, io quando il video questo non lo mostra, però anche qui, come dire, sorrido, Io quando ho finito, io ho detto scusate, devo andare via, perché mi aspetta il Presidente della Repubblica, perché devo andare al Quirinale, sì, al Quirinale a consegnare i premi della giornata dell'innovazione testuale, e si può recuperare, eccetera, eccetera. Si alza una mano e dice no, dobbiamo fare una domanda, ho fatto male evidentemente ad accettare quella domanda, però io sono di buon carattere. E però poi dopo, come di buon carattere, come l'hai di buon carattere? Una domanda legata all'innovazione, alla giornata dell'innovazione. Quando quella domanda non era legata al mondo dell'innovazione, alla mia relazione che avevo fatto, a cui potevo dare una risposta immediata, ha aperto il tema dei precari, che nulla c'entrava con il tema dell'innovazione, la giornata dell'innovazione, ho salutato e me ne sono andato. Però, ministro, a quel punto, mi scusi, ho visto striscioni, ha cominciato a volare gli insulti, eccetera, eccetera, e ho detto, questa è l'Italia peggiore. Parafrasando la mia frase di chiusura del mio discorso, l'Italia migliore, ho detto invece questa è l'Italia peggiore. Confermo tutto questo, perché vede, non si risolve nulla. Io l'ho chiesto l'altro giorno, ieri, a un suo collega, quanti lavoratori a termine atipici ci sono al Sole 24 Ore? Adesso non lo so, non mi faccia questa domanda. Più o meno ce ne sono, però. Sì, ce ne sono, certo, sì. Ce ne sono, perché sono funzionali all'organizzazione del lavoro di un giornale. Quanti ce ne sono nella carta stampata? Vede, quanta ipocrisia c'è? Quanti ce ne sono nel mondo web, nel mondo... Però appunto lei dice, quelli non sono, non sono l'Italia peggiore, cioè lei non si riferiva a quelli, ai precari in generale. Ma non so, senta, io faccio professore di economia del lavoro, sono da una vita che mi interesso di problemi del lavoro, ma le pare che io sia così stupido da dire che le vittime, perché sono vittime di un sistema che non funziona, in cui i padri sono troppo egoisti, siano insider, le vittime e siano loro l'Italia peggiore, ma lei pensa che io sia così stupido? Io ce l'ho con quella casta di, come dire, tra virgolette, privilegiati molto romani. Guardi il nome, i nomi delle interviste di questa mattina, molto romani. Ah, lei dice la figlia dell'ex senatore Russo Spena, che è quella che è salita sul palco. Che è salita sul palco. Io non sapevo neanche chi era. Ci sono varie interviste. Ecco, Roma è piena di questo tessuto di persone. Io mi preoccupo di più dei precari dei call center, io mi preoccupo di più dei precari, tra virgolette, di quelli che non riescono ad avere un contratto a tempo indeterminato nel settore privato e che non hanno parola, non hanno sindacato, non hanno rappresentanza. Io da socialista, da professore di economia del lavoro, mi preoccupo di loro. Di loro. E sto lavorando anche per dare una soluzione ai loro problemi. Mi preoccupo di meno di quelli lì che sono venuti organizzati molto spesso in ambito romano, che vengono con le telecamerine, vengono con gli striscioni già pronti, vengono per avere visibilità mediatica. La signora in questione l'ha detto con molta chiarezza, volevamo visibilità mediatica. Però oppure dice, volevamo fare... Non ho capito cosa avrebbe chiesto. Appunto, perché non gliel'ha fatta fare la domanda, ministro. No, se n'è andata. Non l'ha fatta fare perché semplicemente non riguardava il tema del convegno. Senta, ministro, io la devo salutare e ringraziare. Certo che lei abbia un buon carattere, questa è un po' una battuta. Assolutamente buonissimo carattere. Lei un buon carattere. Assolutamente un buonissimo carattere. Mi sa dire quanti contratti a termine ci sono solo 24 e guarda, ore? Mi informo. Tanto per essere chiari e trasparenti. Mi informo anche, glielo faccio sapere. Eccetera, eccetera. Guardi che non lo so. Come è stato l'ultimo contratto dell'editoria nei confronti dei giornali? Ma se io lo sapessi, chiuso, se lo sapessi glielo direi, non lo so, è mia ignoranza. Non lo so, ecco perché vede tanta ipocrisia. Ma non è ipocrisia, non lo so, è ignoranza semmai, non è ipocrisia. No, non la sua, mi scusi, tanta ipocrisia in questo mondo, per cui si fa presto a giudicare una frase rivolta a un modo barbaro di fare politica, perché vede, se adesso governiamo noi, tra 20 anni governeranno probabilmente gli altri, la sinistra, eccetera, eccetera, ma è questo il modo di costruire il dialogo tra forze sociali, chi governa e così via? Striscioni, offese, insulti, agguati mediatici. Chi di agguato colpisce, poi di agguato perisce. La prossima volta magari contesteranno la Camusso, contesteranno contesteranno Bersani, chi lo sa, le stesse domande. Vabbè, staremo a vedere. Stiamo attenti a non capire l'imbarbarimento di questa fase della nostra vita politica. Intanto io la devo salutare e la ringrazio, Ministro, per essere stato e con mi sappia me. Dire quanti precari glielo faccio sapere, chiamerò Vittorio Pezzuto, il suo portavoce, glielo faccio No, ma lo dica al giornale, lo dica alla radio. Ah, va bene. Non voglio solo saperlo io, è bene che lo sappiano tutti gli ascoltatori. La ringrazio. Grazie. Buona giornata. Renato Brunetta, Ministro della Pubblica Amministrazione e all'Innovazione. 24 mattino. Eccoci qua alle 8:37 minuti. Allora parliamo di fisco, riforma fiscale, certo è in primo piano, ancora oggi sui giornali. Il tema del nostro sondaggio oggi l'abbiamo messo così: abbassare le tasse per ridurre l'evasione fiscale, come ha detto Tremonti. Siete d'accordo? Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Eccoci qua, allora, intanto lo voglio chiedere, voglio salutare il professor Emiliano Brancaccio. Buongiorno, ben ritrovato, professore. Buongiorno. Insegna economia politica all'Università del Sannio. Siamo in attesa di Oscar Giannino, non si sa dove è finito, lo stiamo chiamando, mette giù, non so, arriva, non arriva, chi lo sa. Allora, professor Brancaccio, io se vuole intanto partiamo da questa domanda, quella del nostro sondaggio, anche se io poi oggi leggendo i giornali ci sono delle cose che mi hanno incuriosito, una su tutte, quella che viene già ribattezzata come ipotesi allo studio, quella della gogna fiscale. Ma andiamo per gradi. Allora, la linea che abbiamo anche approfondito con Oscar Giannino l'altra volta è questa. Oscar diceva il problema dell'evasione fiscale così alta in Italia è anche dovuto al fatto che negli ultimi 17-18 anni le aliquote sono cresciute in maniera smisurata e dunque questo fa aumentare la propensione a evadere da parte degli italiani. Lei era in disaccordo un po' su questa teoria. Allora che ne pensa? Quando Tremonti dice che bisogna abbassare le tasse per ridurre l'evasione fiscale, la vede male? Ma il punto è che non è che ci siano riscontri adeguati rispetto a questa idea che una riduzione delle aliquote fiscali comporti poi una riduzione dell'evasione. Non abbiamo riscontri. Mi spiego, innanzitutto sul piano della comparazione internazionale noi non troviamo una relazione statistica significativa tra pressione fiscale ed evasione fiscale. Il motivo e che esistono molti paesi caratterizzati da un livello di pressione fiscale che è prossimo al nostro, addirittura superiore al nostro, e che tuttavia registrano livelli di evasione anche di 10 punti percentuali inferiori. Ma quali, professore? Per esempio si riferisce alla Svezia? Soltanto i paesi scandinavi, ma la Francia, la Germania, che registrano livelli di pressione fiscale prossimi al nostro, hanno livelli di evasione fiscale molto. Però l'obiezione che molti fanno è questa: lì, per esempio, citiamo la Svezia, i servizi sono ad un'altezza, ad un livello che noi manco ci sogniamo. Allora uno dice, certo, se pago tanto di tasse per ottenere dei servizi molto efficienti, allora lo posso ottenere e posso anche sottostare, diciamo, a questo tipo di patto con lo Stato, no? Ma non c'è alcun dubbio sul fatto che noi abbiamo un problema di qualità della spesa pubblica e dell'azione della pubblica amministrazione, non c'è dubbio alcuno, ma ritenere, diciamo, sulla base di questo problema che poi si possa stabilire una relazione per cui riduco le aliquote così il contribuente è più incentivato a pagare, questo non si può dire. Non si può dire. Vorrei fare anche un'altra osservazione. Si è detto che dagli anni 70 ad oggi in Italia si è registrata una crescita sia della pressione fiscale sia della evasione fiscale. Questo è vero, però bisogna fare attenzione a due cose. In primo luogo teniamo presente che già negli anni 70, quindi già prima che la pressione fiscale aumentasse, noi italiani facevamo registrare quote di sommerso e di evasione molto maggiori rispetto alla media europea. Quindi è un problema, se vogliamo, che ci portiamo da tempo appresso. Ma soprattutto, anche ammettendo che ci sia una relazione statistica tra maggiore pressione fiscale e maggiore evasione, ed è da vedere, comunque poi bisogna fare attenzione alla relazione di causa ed effetto tra l'una e l'altra, perché magari può accadere che sia la maggiore pressione fiscale a determinare la maggiore evasione, ma può anche accadere l'esatto contrario, e cioè che sia in realtà la forte evasione fiscale da parte di alcune categorie di reddito che poi costringe ad aumentare la pressione fiscale su altre. Il rapporto potrebbe essere invertito. Esattamente, no? I dati ci dicono che il rapporto può essere molto facilmente invertito. In Italia in particolare noi sappiamo che il forte carico fiscale, per esempio sul lavoro dipendente, si spiega anche con la necessità di compensare gli elevati livelli di evasione che si registrano nel nostro paese. Quindi io, insomma, non sono molto convinto. Non è molto convinto di questa teoria. Allora, intanto io ricordo 800 24 00 24 per intervenire in diretta. I nostri ascoltatori su Radio24.it votando su un sondaggio invece dicono: beh, bene, il 68% dice molto bene, insomma, l'idea di abbassare le tasse per ridurre l'evasione fiscale è un'idea che ci piace. Forse si fermano alla questione, professore, del abbassare le tasse, che insomma potrà dire Tommaso Padoaschioppa, come diceva, che era, pagare le tasse è una cosa bellissima, però insomma forse la gente la pensa anche in modo un po' diverso. Ma vorrei introdurre il secondo tema sul quale voglio subito coinvolgere il nostro Oscar Giannino, che è arrivato. Il secondo grande tema è questo, perché l'ho letto sui giornali, e cioè la questione della ipotesi di quella che è già soprannominata la gogna fiscale, cioè pubblicare tutti coloro che pagano zero sul con nome e cognome, e così, tolti gli esenti e gli indigenti, resterebbero additati i presunti evasori. Oscar, siccome ti voglio fare arrabbiare su, ti voglio fare schiumare. Buongiorno. Gogna fiscale. Gogna fiscale. Beh, bisogna abituarsi a questa indecorosità pubblica. No, intanto perché il professor Brancaccio, mentre arrivava, diceva che non è d'accordo su questa linea. Non c'è una. Ma il professor Brancaccio, ripeto, possiamo avere opinioni diverse sull'abbassare le tasse. Ma è una persona ragionevole. Dal suo punto di vista, io capisco che non ci sia un'inferenza diretta, perché esistono numerosi casi di paesi di ordinamento diverso dal nostro, nel quale l'elevata pressione fiscale convive con forme di adesione spontanea all'ordinamento molto forte, quindi con bassa evasione. Poi c'è la puntata successiva di quello che avevamo detto. Io sono convinto, sono tra quelli che dicono che, siccome l'elevata pressione fiscale da noi si è realizzata in pochissimi anni, meno di 20 anni, cioè sì, più di 20 punti, eccetera, è come fare l'elettroshock a un corpo per cui il corpo si autodifende. Quindi questo spiega perché noi abbiamo una propensione un po' più elevata. I servizi non si sono adeguati, peraltro. Lo Stato è abituato qui a una funzione incrementale molto rapida, e quindi si organizza secondo criteri che sono diversi da quelli di efficienza, eccetera, eccetera. Detto tutto questo, la mia opinione è che quando il ragionamento su evasione e pressione fiscale dipende anche dal peso, per così dire, nei paesi in cui diciamo siamo sotto il 50% di spesa pubblica, siamo vicini al 40% più che al 50%, noi siamo praticamente superiori al 50%, ricordiamolo sempre, la quantità di evasione e di inefficienza pubblica tende ad essere marginalmente molto superiore che a quelli che ce l'hanno più bassa. Allora, da questo punto di vista, secondo me, avere l'idea che la lotta all'evasione si fa solo con il giusto potenziamento di tutto ciò che vediamo e che sta portando ad aumentare la raccolta, e che non si faceva colpevolmente prima, che da un po' di anni a questa parte è diventata giustamente una priorità, ma perché lo Stato deve reperire risorse, questo è vero, però molto si può fare anche con un'idea di pressione fiscale più meno squilibrata. Attualmente, ricordiamoci, più dell'IRPEF viene dal lavoro dipendente, per esempio. Io e Brancaccio la pensiamo allo stesso modo, ed è una maniera di penalizzare il lavoro, il lavoro, quello che andrebbe incentivato, e i pensionati. Quindi la mia opinione è che potremmo intenderci su una cosa a metà, per così dire. Si abbassa un bel po' di pressione fiscale, ma non solo equilibrato, perché bisogna essere ragionevoli. Nei paesi non è pensabile che poi si fa l'elettroshock sempre, cioè abbiamo aumentato la pressione fiscale e fatto le gogne fiscali fino a ieri, e adesso improvvisamente da domani facciamo la rivoluzione alla Reagan, però dopo il traffico ti risfruculio sulla questione della gogna. Ma cosa dobbiamo fare, Mario e Sida? Le liste di proscrizione, è la guerra civile, il sangue a Roma, e poi ipotesi. Di solito arriva l'imperatore dopo le guerre civili, è questo che ci insegna la storia. Vogliamo gli imperatori? Ma non ci basta questa specie di caricatura imperatoria che abbiamo da 17 anni. Però ora arriva il traffico. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, detto che ci possono chiamare all'800 24 00 24 anche i dipendenti delle agenzie delle entrate. No, questo non tocchiamo punti adesso delicati e dolorosi. Perché l'altra volta è finita un po'. Massimo da Milano, buongiorno. Milano, buongiorno. No, c'è un eco. Massimo, dica. Però io non, no, ma guardi Massimo, miglioriamo. C'è un'eco fastidiosissima, non so se ha la radio accesa. Se no, facciamo, sì, adesso di provi. Dica, pronto? dica. Salve, allora io sono imprenditore e anch'io con la questione fiscale sono d'accordo, ma non abbassarla di un punto percentuale, mi sembra una cosa assurda. Abbassarla in modo che tutti paghino le tasse e che anche questi evasori riescano a pagare. Ma mi scusi Massimo, quindi lei vede questo nesso: se si abbassa la pressione fiscale la gente è meno incentivata ad evadere e più incentivata a... Certo, è questo. Penso che chiedano il giusto, non penso che la pressione fiscale adesso è insostenibile. Io non riesco a pagare tutte le tasse, nonostante li pago, poi chiedo la dilazione alle Satri per poter pagare il resto, quello residuo sì, che rimane, sì, perché non ce la faccio. Quindi questa linea va bene, Massimo, grazie. Marco da Roma, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io penso che sicuramente la revisione delle aliquote in maniera sostanziale sia un grosso incentivo, ma va assolutamente accompagnato da un inasprimento della severità. Ora non so se la gogna deve essere mediatica, fisica. Però se solamente fisica addirittura. No, non lo so, però guardi, io vi dico una cosa sola, io mi sono sposato 2 anni fa e sono rimasto esterrefatto come almeno il 30% di quelle svariate migliaia di euro che ho sborsato sono andati in nero, e parlando con persone che ho conosciuto ho visto che questa è la regola. Mi chiedo, ma possibile? Ma aspetti, non ho capito con che operazione, perché si era sposato, sì. Mi sono sposato, ho speso le mie migliaia di euro, che sta bene con matrimonio richiedono, e un 20-30% mi sono state richieste in nero. Vede, ora, ma lì il matrimonio. Parlando con i miei amici è venuto fuori che tutti si sono trovati nella stessa situazione. Ora mi chiedo, ma quindi non sposarsi, lei dice non sposarsi, sono d'accordo. No, si quello prima di tutto, quello prima di tutto. Ah, no, come spero che sua moglie non si è sposato da 2 anni, Marco. Ma che... Ma che ci dice? Il secondo questo qui, neanche il primo. Ah, pure il secondo, il recidivo. Beh, allora, veramente se va a cercare tutto. Comunque lei dice non sposiamoci per non pagare le tasse, ma è una linea un po' singolare. No, io però, grazie Marco. Professor Brancaccio, mi dica qualcosa sulla gogna fiscale come è stata ribattezzata. E poi io però questa cosa, cioè abbassare le tasse, io posso capire, dice c'è una tale pressione, il nostro imprenditore che ci ha chiamato. Ah, perché tu dici che non c'è? No, c'è una tale pressione per cui se abbasso io riesco a far fronte, altrimenti così è troppo alta. Però questo rapporto, questo patto che uno fa con lo Stato. Ma il patto, io in questo momento, adesso ognuno per cui naturalmente se poco pago, se si indigna tanto... cominciando dal suo. No. I lavoratori dipendenti, io l'ho sempre detto, hanno tutti i sacrosanti diritti, ci hanno il sostituto d'imposta trattenuti. E quindi la gente lì non può fare niente. In questi anni di crisi io sto pagando per le mie due società, la mia partita IVA, tutto sommate tutte le imposte, tutte comprese lì sui dipendenti, eccetera, tra il 65, poi il 67 e il 68. Ma no, ma come dico, il 68% del risultato lordo. Ma ti rendi conto che e il 68% ti che io spinge pago a dire integral... a pensare, ma forse io evaderei le tasse perché così, ma se no, fosse spinge, al 50, se fosse al 45. Pensare, perdonami, che quando si è a quei livelli di pressione e diventa una follia, sei disincentivato a fare tutto. Non puoi più fare niente, cioè c'hai un socio occulto che si becca i 2/3 che non ti sei scelto. Adesso obiettivamente io sono per gli obblighi, ma certo, ma che sia è chiaro che l'obbligo fiscale serve a finanziare le funzioni allora, fondamentali che la pressione fiscale sia altissima non è in discussione, e la discussione è se abbassandola questo incentiva più. Professor Brancaccio, dica qualcosa anche sulla gogna fiscale che si profila, cioè questa idea di pubblicare tutti quelli che denunciano zero, per cui tolti gli indigenti, quelli che hanno detto, rimangono i presunti evasori. Allora, guardi, io non ho dati, diciamo, sugli effetti della gogna fiscale, quindi francamente non le so dire. Mi sembra interessante, diciamo, come idea. Io mi limito a dire quel che noi sappiamo sulla base dei dati. Sulla base dei dati noi sappiamo, ripeto, che già negli anni 70, quindi già prima che la pressione fiscale aumentasse, noi italiani facevamo registrare quote di evasione molto maggiori rispetto alla media europea. Quindi noi abbiamo un problema strutturale che non dipende solo e semplicemente dal fatto che la pressione fiscale sia aumentata nel corso di questi anni. Noi poi abbiamo dei dati relativi al fatto che se si vuol davvero combattere l'evasione fiscale, gli esperti di scienza delle finanze ci dicono che i criteri, tra gli altri, sono principalmente due. Cioè, in primo luogo bisognerebbe semplificare le norme in materia fiscale. Sì. Perché? Perché la complessità delle norme esaspera da un lato il contribuente che paga, ma al tempo stesso agevola l'evasore. E in secondo luogo bisognerebbe evitare i condoni, perché noi abbiamo chiara evidenza del fatto che ogni volta che si verifica un condono, l'evasione tende poi ad aumentare. A questo proposito mi permetto di dire che sarà interessante verificare, tra le altre cose, se per esempio l'approvazione del cosiddetto scudo fiscale, che sotto più di un aspetto somiglia ad un condono, determinerà un aumento dell'evasione. Stando a quel che è avvenuto in passato, può darsi che questo si verifichi. Io, tra l'altro, abbiamo un minuto, Oscar. Professor Brancaccio, da quando lei ha definito interessante l'idea delle gogne fiscali, Oscar è paralizzato in una smorfia tra il dolore e... il dolore, perché è un caro amico, una persona seria. Quando ha sentito la proposta interessante... La gogna è sempre uno strumento... Vabbè, chiamiamola, il messaggero la chiama liste pubbliche dei furbi. Magari. Ma Alessandro, io gogna, lo so, magari io lo so che tu metteresti gli albi pretori alle quattro anche... Ancora, cioè, la tua idea è che la lotta all'evasione fiscale bisogna affidarla al new model army di Cromwell, agli Ironsides, cioè si passa a fil di spada la gente che, cioè, portateci la vostra dichiarazione fiscale, non ci convince, zac, una bella spadata. Questa è la lotta all'evasione fatta sul metodo Milan, così c'è un contribuente in meno. Che, diciamo, è un pochino più equilibrato di te, dice ma un'idea interessante, non ha detto mi sembra la strada da seguire luminosa, ha detto, perché io capisco, il metodo pubblico è uno degli strumenti per dare l'idea che bisogna assolvere il proprio dovere, il metus, cioè l'idea che si viene meno nella considerazione pubblica additando l'evasore, però temo che non sia quella la strada fondamentale. La strada fondamentale è quella degli incentivi e disincentivi. Per esempio, con Brancaccio io sono completamente d'accordo, un ordinamento meno complicato e meno pervasivo, ossessivamente inapplicabile per le sue complicazioni, è sicuramente un grande passo avanti, molto sostanziale. È vero che noi avevamo un'evasione fiscale anche precedente, ma perché siamo arrivati tardi allo Stato moderno, ci siamo arrivati da 7 ordinamenti precedenti all'unità che avevano comunque una bassa pressione. Insomma, secondo me il professor Brancaccio e Giannino in un giorno di lavoro troverebbero un accordo da due punti di vista diversi per una buona imposizione sul lavoro e sull'impresa, per far crescere l'Italia e anche sull'evasione fiscale, perché siamo persone distinte nell'opinione ma ragionevoli. Il problema è quando per 17 anni si dice faccio la riforma e non la si fa mai. Ecco, questo è il punto. Io ringrazio Alessandro Longone, Elisabetta Fusconi in redazione e Paolo Corleone in regia. Di che parli, Oscar, oggi? Tra poco, alle 9? Sì. Non te lo ricordi? Ma addirittura! Parliamo della Grecia che esplode e dell'eurodebito come al solito ci chiama nel suo gorgo. Vuoi venire nel gorgo con tra me? Tra poco? No, ne sto fuori, alle 9. Ragazzi, evasori, non ascoltate più Milan. A domani.